We can't accept events like this as routine. Are we really prepared to say that we're powerless in the face of such carnage, that the politics are too hard? Are we prepared to say that such violence visited on our children year after year after year is somehow the price of our freedom? Avete sentito la voce ferma del presidente. Il presidente dice che non ci si può rassegnare all'idea che questi episodi di violenza diventino una routine. Si domanda, dobbiamo forse dire che siamo impotenti davanti a una carneficina di questo genere, che le complicazioni per cambiare le leggi sono insormontabili e Obama ha promesso di cambiare. Il problema è che c'è un ostacolo costituzionale. Il secondo emendamento della Costituzione autorizza la formazione di milizie e tutela il diritto ad essere armati. La Corte Suprema americana nel 2010 e nel 2008 ha ribadito che questo diritto va rispettato. Sappiamo che c'è la lobby fortissima della destra repubblicana e di coloro che sostengono l'NRA, la National Rifle Association, l'associazione dei portatori d'armi. Sarà una battaglia feroce, ma credo davvero che l'umore questa volta sia cambiato, che la maggioranza del paese non potrà più tollerare che non si faccia nulla, come ha detto il presidente Barack Obama. La sfida è partita, una sfida in più che si aggiunge al confronto politico fra democratici e repubblicani che testimoniamo in questi giorni in Parlamento su altri fronti che improvvisamente sembrano molto più potenti.